nessuno che io sappia è mai riuscito a individuare con esattezza il passo di Hegel, citando al quale Marx apre il suo celebre saggio, un tempo celebre saggio, sul 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, e affermando che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano, per così dire, due volte. I riferimenti che si fanno di solito alla terza parte delle lezioni sulla filosofia della storia non sono così puntuali, e nessuno può escludere che quell'aforisma il profeta del materialismo dialettico l'abbia approssimativamente ricostruito a memoria, o addirittura che se lo sia inventato. Poco male, naturalmente, perché interessargli davvero è l'osservazione che segue immediatamente, quella per cui ciò che si presenta la prima volta sotto l'aspetto di una tragedia appare inevitabilmente la seconda come una farsa. Che non sarà forse una legge generale del divenire storico, ma individua una tendenza alla quale non è difficile con un po' d'attenzione trovare conferme. Così non vorrete negare che la settimana testé trascorsa qui in Italia sia stata caratterizzata da un certo numero di déjà vu, tutti, nonostante la serietà o persino la drammaticità dei problemi coinvolti, di tono piuttosto farsesco. Ha cominciato il Presidente della Repubblica, che a volte ha un po' la tendenza di svilire le proprie sue doti di politico e statista preclaro, assumendo uno sgradevole tono di primo della classe, e che ha riproposto incautamente la questione giuliana, gettando nel caos i rapporti diplomatici con i vicini orientali. Vi ha fatto seguito il governo, che nell'ansia ormai tradizionale di trasformare un contrasto politico in problema di ordine pubblico, non ha trovato di meglio che giocare una volta di più la carta delle Brigate Rosse e di evocare, per fortuna, invano lo spettro della violenza di piazza. Ed entrambi questi notevoli tentativi di avvalorare la massima marxiana sono stati letteralmente surclassati dai vescovi, che dopo avere opposto in via informale il non possumus a chi gli chiedeva comprensione per la legge delle coppie di fatto, hanno formalmente minacciato nella persona del loro presidente una sorta di nuovo non expedit contro chiunque, senatori e deputati in testa, tale legge contribuisca a mettere in atto. Ora, di infiammettenze clericali nelle questioni del paese, naturalmente ce ne sono state parecchie, a partire da quel primo diktat con cui il 10 settembre del 1873 Pio IX ebbe a dichiarare che non era opportuno, non expedit si dice appunto, che i cattolici partecipassero alla vita politica dello Stato unitario. Venuto meno rapidamente quel bando, per via della necessità di far valere a pro della Chiesa i voti dei moderati, che è più o meno il senso del patto Gentiloni del 1913, le competenti autorità religiose non hanno mai smesso di darci dentro. Basterà ricordare, tanto per attenersi ai due episodi più noti, la crociata contro il modernismo di Pio X, con l'impegno di eliminare, con la pretesa che i docenti modernisti fossero eliminati dalle università italiane, e la scomunica del comunismo pronunciata da Pio XII. Si trattava almeno di problemi seri, di questioni che comportavano una reale disparità di visioni del mondo, di prospettive per il futuro, il che poteva spiegare, se non giustificare, il rozzo interventismo dei papi. Oggi invece il cardinale Ruini, a coronamento di una lunga e brillante carriera, sfida il ridicolo, minacciando una nota ufficiale che sia impegnativa per coloro che accettano il magistero della Chiesa, che è mica paglia, per simulare una proposta di legge della portata minima, volta a regolare non senza implicazioni vessatorie e vistosi cedimenti ai punti di vista del clero una realtà largamente diffusa e tale da riguardare per sua natura solo dei cittadini che al magistero in questione si sentono estranei per definizione. La pretesa, insomma, è sempre quella di imporre la propria normativa a chi non ha motivo di riconoscerla, ma che la registrazione all'anagrafe di una convivenza non matrimoniale o il diritto dell'eredità legittima dopo 9 anni sotto lo stesso tetto possano mettere in pericolo la dottrina morale della Chiesa o addirittura i disegni dell'Onnipotente, un ordinamento divino che l'uomo non può modificare a suo arbitrio, ha detto il Papa. Può supporlo soltanto chi sulla solidità di quella dottrina, la coerenza intrinseca di quei disegni, nutra più dubbi di quanti abbia il coraggio da confessare. Vittorio Messori, sul Corriere di martedì scorso, fa degli sforzi erculei per dimostrare che la questione, vertendo appunto sul rispetto della volontà di lassù, è ancora più importante di quella del potere temporale, per cui il povero Prodi correrebbe oggi molti più rischi di quanti non ne abbia affrontati a suo tempo il barone Ricasoli, e che fu il primo capo del governo unitario dopo Cavour e dovette sfidare lui, cattolicissimo, le ire di un Pio IX comprensibilmente incazzato per essere stato orbato da poco del governo di Roma. L'ipotesi, in paragone Prodi-Ricasoli, diciamo, è un'ipotesi suggestiva, ma solo ammettendo che Padre Eterno si curi anche dei dettagli del diritto ereditario o di quello degli assegni alimentari. È un'ipotesi che non so a voi, ma a me suona vagamente blasfema. La vera farsa naturalmente è un'altra. È quella di un ceto politico talmente prono alle istanze del clero, talmente bisognoso della benevolenza dei porporati, da non rendersi conto che sono proprio i compromessi e i cedimenti con cui cerca di eludere le ire cardinalesche a incoraggiare i Ratzinger e i Ruini nel loro gioco al massacro. Avessero incontrato una dignitosa resistenza, credete a me, le loro santità non avrebbero potuto fare molto, perché non hanno certo l'interesse di impancarsi in un braccio di ferro con il mondo laico su una tematica a proposito della quale la storia si è già pronunciata con sufficiente perentorietà. Di fronte al vergognoso caramento di brache cui gli è stato dato assistere, beh, naturalmente il discorso si è fatto diverso, che dopo tutto chi pecora si fa il lupo ne approfitta.